24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta all'edizione di 24 ore in Europa di questo giovedì 6 settembre 2012. L'attenzione dei mercati è proiettata verso il board della BCE in programma oggi, dal quale sono attesi dettagli dell'azione di Francoforte dopo le linee guida dettate da Mario Draghi. L'istituto, ha precisato il banchiere, acquisterà titoli di Stato a breve scadenza dei paesi in difficoltà e tale intervento sarà a beneficio di quei paesi che sottoscriveranno un memorandum di impegni. Ieri sera la cancelliera Angela Merkel ha fatto sapere che può accettare un piano di acquisti di titoli di Stato temporaneo da parte della BCE, ma non acquisti illimitati. Intanto l'indiscrezione uscita prima della reazione tedesca sulla possibilità di acquisti di bond illimitati da parte della BCE ha accentuato il calo dello spread tra BTP e bund tedeschi. Il differenziale ha chiuso 404 punti base con un tasso sul titolo del tesoro al 5,51%. Contrastate invece le borse europee con Milano in rosso. Le borse europee attendono le decisioni della BCE e chiudono la seduta di mercoledì su posizioni contrastate. La peggiore è stata Milano, che ha perso lo 0,63% sul FTSE All Share e lo 0,62% sul FTSE MIB. I listini di Piazza Affari non sono riusciti ad approfittare della buona giornata delle banche, che sono state sostenute dalla discesa dello spread tra BTP e Bund a 403 punti base. UbiBank è salita del 3,44%, BPM dell'1,98% ed MPS dell'1,3%. Deboli invece ST Microelectronics, meno 5,3%, su cui ha pesato il meno 13% fatto segnare da Nokia alla borsa di Helsinki. Nel resto del listino, nuova giornata di boom per RCS, che è balzata del 29% e ha portato a più 360% il bilancio del rally dal 24 agosto scorso. Paolo Paronetto, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito, i listini del vecchio continente hanno chiuso contrastati una seduta incerta in attesa delle decisioni della BCE dopo le linee guida ribadite lunedì da Mario Draghi. E allora torniamo alle parole pronunciate dal governatore della BCE a inizio settimana. Francamente, tutto questo ha molto a che vedere con la sopravvivenza stessa dell'euro. Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha scelto toni drammatici nella ringa tenuta lunedì di fronte agli eurodeputati. Draghi, che presiderà uno storico consiglio direttivo della BCE, ha certificato la perdita di controllo da parte di Francoforte dei costi di finanziamento all'interno dell'eurozona. Non possiamo puntare alla stabilità dei prezzi con un'area euro talmente frammentata che i cambi nei tassi producono effetti solo per uno o due paesi su 17. Di cui il ragionamento paradossale, almeno nella logica dei falchi della Bundesbank. Draghi si chiede: acquistando bond rinunciamo al nostro mandato primario, mantenere la stabilità dei prezzi? No, è esattamente l'opposto. La strada appare dunque tracciata in vista del direttivo: via libera all'acquisto da parte della BCE di bond sul mercato secondario, titoli di Stato fino a 3 anni di quei paesi che avranno già chiesto al Fondo Salva Stati un intervento sul mercato primario. Interessante sarà capire la posizione della Bundesbank, che appare ormai isolata. Probabile che la Buba chiederà condizioni rigide per i paesi che faranno ricorso allo scudo. In Grecia intanto sono giorni decisivi con la troika internazionale che spinge sulle riforme per il mercato del lavoro e il governo ellenico che annuncia nei prossimi giorni la presentazione ufficiale delle misure sui nuovi tagli da 11 miliardi e mezzo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente UE, Herma Van Rompuy, offrendo pieno sostegno ad una serie di possibili azioni della BCE, ha detto che il livello dello spread di alcuni paesi non è sempre giustificato dai loro fondamentali. Intanto il premier finlandese Katainen, paladino del rigore e contrario all'interventismo BCE, ha esortato la Banca Centrale Europea a rispettare il mandato sulla stabilità dei prezzi. Ora sentiamo il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, alle parole di Angela Merkel, secondo la quale i mercati non sono a servizio del popolo. Colpisce sempre la simmetria politica tra Italia e Germania. La frase della Merkel sui mercati che non sono al servizio del popolo è certo stata pronunciata pensando alle future elezioni. Benché siano lontane, settembre 2013, la cancelliera si muove e parla senza lasciare nulla al caso e si preoccupa sempre del consenso. È legittimo e pazienza se la Germania ottiene grandi e quotidiani vantaggi finanziari proprio grazie ai mercati e alle loro logiche speculative. Tuttavia la frase in se stessa introduce un motivo non banale nel dibattito dibattito politico tedesco, cosa che da noi sarebbe impensabile. Temi di questo genere, che toccano comunque il cuore dell'attualità e della crisi europea, sono quasi sempre rigorosamente assenti. I partiti o non li percepiscono o li escludono per qualche loro calcolo. Risultato, si discute di legge elettorale o si litiga sui dettagli, ma l'Europa e i suoi drammi svaniscono sullo sfondo. Grazie a Stefano Folli. Una roadmap italo-francese in tre tappe per la strategia salva euro è emersa dagli incontri di Roma tra Mario Monti e il presidente francese François Hollande. Nemmeno una parola sulla quale non concordiamo. Mario Monti sintetizza così la perfetta sintonia con il presidente francese Hollande sulla strategia salva euro e il piano per la crescita. Proprio la crescita deve essere la priorità, dicono all'unisono i due leader, perché fare i compiti a casa è necessario, ma non basta. Occorre anche che via via che un paese realizza i progressi nella propria politica economica ci sia un riconoscimento da parte della stessa Unione Europea. D'accordo anche sulla centralità del problema dell'occupazione. Su questo Monti rivolge un appello alle parti sociali affinché ognuno faccia la sua parte. Occorre anche che chi rappresenta il lavoro e l'impresa acuisca gli sforzi da parte sua. Un vertice, spiega Hollande, che è servito per tracciare una roadmap in tre tappe per la zona euro, far applicare le decisioni del Consiglio UE, risolvere i problemi di Grecia e Spagna e realizzare l'unione bancaria. Nous avons finalement trois étapes. La première étape, c'est de faire appliquer les conclusions du Conseil européen. I due presidenti si danno appuntamento ai primi di dicembre per un prossimo bilaterale che si terrà a Lione, stazione di arrivo della TAV. La completeremo, promette Monti. È un'opera di fondamentale interesse. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Un altro effetto della crisi che sta attraversando l'Europa è la crescente disillusione dei paesi dell'Est, entrati nell'Unione Europea e che aspettavano di aderire alla moneta unica. Molti di loro stanno facendo marcia indietro, spaventati proprio dei costi di questa crisi. Fino a ieri era l'Unione Europea a dettare tempi e modi di adesione all'euro. Oggi sono loro, i paesi dell'Unione ma senza moneta unica, quelli che aspettavano di entrare nel club Eurozona dei favolosi 17. Sono loro a non voler accelerare. Anzi, da fuori l'euro non sembra più un buon affare, almeno non fino a quando la crisi sarà ancora in corso. Già, perché fino a ieri c'erano solo i vantaggi, la valuta forte e robusta, le locomotive europee da apripista, un mercato unico in cui ritagliarsi il proprio spazio. Ma da qualche mese, meglio da qualche anno, non è più così. Da quando la moneta unica ha presentato il conto, o più precisamente da quando i paesi periferici dell'eurozona hanno cominciato a scricchiolare. La Bulgaria, prossima all'adozione dell'euro, gennaio 2013, ha fatto marcia indietro. È stato il ministro delle finanze a dire che il progetto è congelato, indefinitamente. Anche la Polonia ha preferito fermarsi allo stop. A ruota, la Lituania, la Lettonia, perfino la Romania. Tutti spaventati dai costi dei salvataggi che si profilano all'orizzonte, loro che di risorse ne hanno ben poche, e perplessi di fronte all'incapacità dell'eurozona di trovare un accordo su regole e impegni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla strada del trattato di adesione della Serbia all'Unione Europea c'è il nodo Pristina. Semplice provincia federale per Belgrado, il Kosovo è di fatto da oltre 4 anni un'entità autonoma sotto amministrazione dell'ONU. Il nodo Kosovo torna al pettine della Serbia, che punta decisamente all'ingresso nell'Unione Europea. Dopo il passo formalizzato dalla Croazia, ormai certa di diventare la 28esima nazione del club, tocca in maniera naturale a Belgrado spingere ulteriormente a sud, lungo la penisola balcanica, il confine dello spazio UE. Bruxelles ha sempre sostenuto la dottrina dell'allargamento progressivo, ne ha fatto una leva per pilotare la consegna dei criminali di guerra, ora la usa sul fronte del Kosovo, cercando di esternalizzare, per così dire, gli effetti impopolari che inevitabilmente discendono dalla formalizzazione di una riduzione territoriale. A lungo termine è chiaro che il riconoscimento tra Serbia e Kosovo è una precondizione per entrare nell'Unione, ha detto il presidente del Parlamento Martin Schulz, cosa peraltro complicata anche dal fatto che ben 5 stati dell'UE, Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro, non hanno ancora riconosciuto la nuova entità. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Gazprom ha probabilmente manipolato la concorrenza sul mercato del gas in 8 paesi dell'est europeo, dalla Polonia alla Bulgaria. Prezzi gonfiati, operatori scelti per convenienza e rubinetti chiusi ad arte. Questi i sospetti dell'antitrust di Bruxelles, che un anno dopo aver avviato le indagini con una raffica di ispezioni a sorpresa compiute nel settembre 2011, ha formalizzato l'apertura di una procedura prioritaria sul probabile abuso di posizione dominante da parte del gigante russo di produzione e distribuzione del gas. Il 2013 sarà l'anno europeo dei cittadini. Dopo gli anni dedicati al volontariato, il 2011, e all'invecchiamento attivo, il 2012, l'Unione Europea intende organizzare per 12 mesi una serie di eventi in tutti i Paesi membri per spiegare i diritti legati alla cittadinanza europea. Un primo sì all'iniziativa è arrivato a larga maggioranza dagli eurodeputati della Commissione per le Libertà Civili, un via libera che dovrebbe essere confermato presto dalla plenaria del Parlamento Europeo. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.